Innamorati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ma... Raffaele, provincia di Forlì Cesena, buongiorno. Salve signor Genta, buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Grazie, dica. Senta, io non vorrei tanto portarla per le lunghe, però io voglio la testa di Mazzarri calcisticamente parlando. Niente di meno. Eh sì signor Genta, perché immagini la scena, io tutto là pronto che voglio vedermi una grande Inter. E sono tutto là, inizia la partita, il Cagliari schierato 2-0-8 a centrocampo, chiamo la SNAI, 10 euro 6-0 per l'Inter, e poi vado a vedere 4-1 per Cagliari con la squadra chiusa in difesa, se manco fosse Real Madrid. E l'essenza non vivo senza. No vabbè, processo all'Inter va bene, la testa di Mazzarri no. È chiaro che in giorni come quello di ieri, ma anche come quello di oggi, io credo, 800 24 00 24, per le vostre telefonate 349 238 6666, ci manca soltanto una cosa. Storicamente siamo stati abituati per 18 anni in giornate come quella di ieri a fare la posta sotto gli uffici della Saras aspettando Massimo Moratti. No, credo, non so, 11 giocatori in campo, non c'era allenatore in campo, quindi può esserci certamente una sottovalutazione, ma non credo neanche una sottovalutazione della partita, tutt'altro. Comunque è andata così, no? Partita no comment, perché non si sa che cosa commentare. Sul discorso del progetto, ma sinceramente non è facile progettare avendo una matita invece che un computer come il capitano in questo momento, perché abbiamo 10 giocatori, però il progetto di per sé o quello che possa essere il pensare sull'anno prossimo lo stiamo facendo bene. Credo. Certamente un po' di destino contrario c'è stato, insomma, gli episodi che non sono andati bene, quindi non cambia quello che è un giudizio positivo sulla squadra. E dispiace perché invece erano punti importanti. Bene, abbiamo presi un paio a caso così d'archivio, giusto perché ci mancava, erano contestualizzati, potevano essere stati pronunciati ieri, invece Moratti è ormai ai margini dell'Inter di Toir. Di fatto Toir ha parlato con i suoi, parlato con Mazzarri, espresso il suo disappunto, è salito sull'aereo ed è andato via. Quindi inutile rimpiangere quei tempi. Beh, caro presidente, poi arrivo anche da te, caro presidente Ferrero. Intanto, ieri sera, Tiki Taka, Pardo arriva dopo, ha parlato Zeman così, tanto per... Giulini già aveva messo sale sulle ferite, no? Inter presuntuosa, ma sappiamo che ha il dente avvelenato perché è del consiglio di amministrazione dell'Inter. Faceva parte non ascoltata, quindi credo sia stato da amico di Moratti particolarmente contento. Forse sono troppo malizioso io, però questo è ciò che penso. Intanto Zeman, track, gira il coltello nella piaga dell'Inter. A me piace il calcio giocato, poi se si gioca bene mi piace vedere chiunque sia, poi penso che l'Inter ha giocatori importanti, l'Inter lo può fare, spero per loro, visto che noi già li abbiamo affrontati, che ci riuscirà dopo di noi. Sì, intanto il Cagliari aveva un punto, adesso ne ha quattro, vediamo al prossimo giro, perché non sarà per il Cagliari e per Zeman, non sarà sempre Inter, cioè non sarà sempre domenica, una domenica come questa. C'è un altro Zeman però che voglio farvi sentire prima del traffico, questo. Se si riesce a giocare così in campionato, per me possiamo prenderci delle soddisfazioni, i ragazzi sono ripagati di quello che stanno facendo. Noi ci siamo allenati anche oggi dopo che abbiamo giocato ieri. Vabbè, comunque vediamo al prossimo giro. Intanto ieri sera abbiamo visto la Lazio spazzare via con i gol di Djordjevic e con una eccellente partita a Palermo e un risultato rotondissimo, un sacco di nuvole. Abbiamo visto l'Udinese e Stramaccioni confermarsi. Parliamo di tutto questo dopo, parleremo anche di Cassano che torna alla Sampdoria, ormai lo sapete tutti, o no, non lo sapete ancora, vabbè, poi ve lo diciamo, ma parliamo di della Roma, che questa sera è a un importante esame europeo, ma sarà ancora più importante visti gli obiettivi e viste le pressioni che ci sono, l'esame europeo della Juventus di domani. Esami che avranno magari qualche riflesso sul big match di domenica prossima. E poi c'è un altro mistero di cui voglio parlare, quello del faraone scomparso. Tutto questo insieme a voi, 800 24 00 24, con Franco Piantanida, il nostro autore, Roberto Scaltritti in regia, Claudio Schiattoni in redazione. Vi aspetto. Vabbè, dopo 5 giornate è difficile dire, ma se non succede niente di strano tra Juventus e Roma, sicuramente ci sarà più battaglia rispetto all'anno scorso. Pessena carica al destro, Pessena, Andanovic, la palla rimane lì, Sau e poi Ekdal, subito il Cagliari in 11 contro 10 a trovare il gol. Probabilmente ho sbagliato alcune valutazioni di turnover, cioè, siccome la squadra 3 giorni fa si è espressa benissimo, secondo me stava crescendo, non ho guardato troppo l'aspetto fisico, il dispendio di energie che nel calcio moderno è fondamentale. E per cercare di tenere certi meccanismi ho fatto giocare alcuni giocatori che erano alla terza o quarta partita, erano troppi e si è visto, il Cagliari era più veemente. E Ibarbo si lancia da solo praticamente, Ibarbo, grande giocata, Ibarbo mette dentro, ancora Ekdal, ancora Cagliari, 3-1, una super giocata di Ibarbo. Noi abbiamo giocato anche in Europa League in Ucraina, abbiamo fatto un filotto di partite, sono 4 partite di fila. Ieri qualche giocatore era un po' affaticato, poi siamo rimasti in 10 e è diventata sempre più in salita. Però la cosa che sento è che avete detto tutti Mazzarri, la colpa è di tutti, la colpa, poi non mi va neanche di dire colpa, la responsabilità di tutti. Di Barbo dalla bandierina, palla dentro, salta ancora Cepitelli e la conclusione, il gol, ancora Cagliari. Allora, dicevamo prima che in giorni come questo, in momenti come questo, si faceva un salto sotto gli uffici della Saras. Massimiliano Max Nebuloni quella strada per Sky l'ha fatta molte volte. Ciao Max. Ciao, buongiorno a voi. Riflessi di un'altra Inter, diversa anche nei momenti difficili. Adesso invece il proprietario manifesta il suo dissenso, sale su un aereo e vediamo che succede. Sì, è cambiato un po' tutto a livello societario, adesso non si va a Giacarta e si viene da piano, sì. Nel senso che le reazioni arrivano da altri personaggi, evidentemente sai, Tohir arriva da un'altra cultura rispetto a Moratti, che magari viveva il feeling con l'Inter in maniera più passionale, o almeno adesso è totalmente ai margini di questa idea, di questo progetto. Il denominatore comune tra le due epoche rimane comunque la pancia dei tifosi, che adesso chiedono la testa calcistica di Mazzarri. A me sembra troppa roba. Io ho molto criticato Mazzarri in passato per un vittimismo troppo pronunciato, per certe volte l'incapacità di assumersi delle responsabilità, che invece in questa circostanza si è assunto in toto. A me chiedere la testa calcistica di Mazzarri sembra troppa roba, ti dico la verità. La pazienza non si compra, non si comprava prima quando c'erano i soldi per Ronaldo, figuriamoci adesso. Però una partita inspiegabile, perché questo è l'unico aggettivo che mi viene in mente, non giustificherebbe una rivoluzione di fine settembre. No, ma sono d'accordo assolutamente con te, anche perché ci vuole un po' di equilibrio, perché gli stessi tifosi o nel nostro caso molti addetti ai lavori, molti giornalisti che oggi puntano il dito su Mazzarri, contro Mazzarri, sono gli stessi che fino a sabato parlavano di terzo posto, di zona Champions, addirittura di Inter lanciata. Parlare di scudetto è un po' spericolato. Ecco. No, spericolato è inutile. Non più tardi di sabato Ranocchi in conferenza stampa ha detto: io non firmerei per il terzo posto perché questa squadra se la può giocare con tutti. Ecco, questo per dare una dimensione di quello che è l'Inter in questo momento, no? È bastata una sconfitta che secondo me rimane un incidente di percorso grave, rappresenta un piccolo campanello d'allarme, però è una sconfitta troppo clamorosa. Sono d'accordo. Paradossalmente è talmente vistosa, no? Talmente evidente, quasi da non fare testo. Poi è chiaro che fa testo, è chiaro che fa polemica, è chiaro che fa rumore, tutto quello che vuoi, però è così paradossale, così caricaturale da essere finanche eccessiva. Certo, una ragione. Ho fatto il paragone della papera di Diego Lopez a Parma sul passaggio di De Sciglio, cioè sì. Non si giudica il valore di un portiere su quello che è chiaramente un infortunio. Può capitare di fare una figura del genere, però non è che Diego Lopez è un brocco, è un buon portiere e nonostante l'errore, idem per l'Inter. Tu ti sei dato una spiegazione, conosci bene quell'ambiente, del motivo per cui l'Inter non è sceso in campo domenica, perché la cosa più clamorosa è stata quella che, cioè, mi ha ricordato un maestro a due pugili, uno dei quali mette la faccia senza alzare la guardia e prende un sacco di botte. Sono d'accordo, io più che pensare a un discorso fisico, pensare a un discorso mentale, nervoso, cioè ci sono tanti giocatori, questa è un po' l'analisi che ha fatto Mazzari con i suoi collaboratori ieri, che non sono abituati a giocare tre partite alla settimana non è chiaramente un discorso fisico, anche perché siamo a fine settembre, quindi parlare di turnover a gennaio o a febbraio avrebbe un senso, ma dopo 8 partite non starebbe in piedi nemmeno se avessero sempre giocato gli stessi 11. Certo. Credo che sia un problema proprio mentale, insomma ci sono giocatori che non ce la fanno a stare sempre sul pezzo ogni 3 giorni, sai, se sei Zanetti, Cambiasso, Stankovic, gente che ha una testa di ferro e non solo quella di ferro, riesci a scendere in campo sempre con la stessa mentalità e metabolizzi vittorie e sconfitte. Questi evidentemente sono giocatori molto più giovani, più fragili, che soffrono anche forse l'impatto con un pubblico esigente come quello di San Siro e rischiano di fare figure come quella di domenica. Certo, è un esercizio di stile, secondo me, anche dopo 5 giornate contare il più 5 che l'Inter aveva l'anno scorso, anche perché ieri parlavamo del profondo niente che c'è dietro le spalle di Milan e Juventus, e in quel profondo niente l'Inter e il Milan si misurano. Inter e Milan sono alla pari, il Napoli a meno 1, la Fiorentina e la Lazio sono a meno 2, Udinese e Sampdoria per ora sono bellissime ma a medio termine non ci credo. Dunque la situazione è questa, e la corsa per il terzo posto, una di queste emergerà, io credo, una tra quelle note. Piuttosto, Max, per chiudere, secondo me in quest'Inter, e voglio la tua opinione, ci sono almeno due equivoci. Uno è Hernanez Kovacic, dei due uno è di troppo. L'altro è, con Palacio che mi sembra evidentemente consumato, Icardi e Osvaldo insieme possono stare oppure no? Al momento sì, io più che altro sposterei l'attenzione sul centrocampo, visto che abbiamo tutti rotto le scatole per mesi a Mazzari sulle due punte. Lui ha fatto giocare le due punte, però qualche giocatore nello spogliatoio sta mettendo in dubbio il fatto, insomma, che si possa sorreggere oltre ai due attaccanti, due ali che spingono e due mezzali, insomma, di qualità che spesso si inseriscono. Secondo me è questa la chiave, insomma, sulla quale lavorerà Mazzarri, perché in questo momento più che Kovacic c'è troppo Hernanez, nel senso che non è ancora entrato in forma, non sta bene, al di là del gol che ha fatto con l'Atalanta, e a breve, secondo me, già a Firenze rivedremo due giocatori, insomma, di sostanza, oltre a Medel, Andilà o qualcun altro, però così la squadra è troppo sbilanciata e soffre troppo. Grazie Max, buon lavoro. Grazie a voi. Ciao, ciao Pardo, Massimiliano. No. Pardo te lo saluto io, arriva alle 2:30. Okay. Cioè, era pranzo, ciao, credo. Ciao. Ciao Max. Secondo me, paradossalmente, all'Inter potrebbe anche risultare utile, per caratteristiche diverse, anche uno come Guarin, che però è ai margini della rotazione, è ai margini dei pensieri comunque della società. Torno a ripetere, Kovacic ed Hernanez insieme, secondo me, non possono stare. Questo magari poi Mazzarri ci dimostra il contrario. Allora, poi parliamo anche della Champions League. C'è chi mi scrive: scommetto che la Roma questa sera fa il colpo a Manchester. Io non scommetto, ma ci credo pure. Parliamo del Milan e del mistero del faraone scomparso. Non avete niente altro da fare? Non abbiamo nient'altro. Sì, abbiamo un sacco di cose da fare, ma ci va di parlare di queste cose o di altre che vorrete sottoporci. 800 24 00 24, il numero verde. Paolo Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. L'Inter, due domande velocissime. Secondo Luigi, l'Inter sarà fortunata se arriverà settima. Pessimismo cosmico e senza confini. Va bene, dica. Sì, volevo sapere se c'è la possibilità di Mancini all'Inter come secondo Guido Rossi, almeno si vincono un altro bello scudetto di cartone. Prima domanda. Siete, domanda questa tendenziosa, fossi un giudice. No, siccome hanno vinto solo quel periodo lì, per cui poi è finito tutto. Beh, mi pare che con Mourinho qualcosina sì, però vinto, sempre nel periodo Fossopoli, no? né prima né dopo. Dopo appena la Juve è tornata si è fermato tutto. Ma a parte questo, che l'Inter tanto massimo arriverà a settimo ottavo. Io sulla Roma una domanda. Adesso la Roma ha due trasferte non indifferenti. Una questa sera a Manchester e domenica a Torino. Le prime due trasferte che ha fatto la Roma quest'anno, mi sembra Empoli, ha segnato su un autogol. Sì. Cioè vedo sta squadra molto forte all'Olimpico, ma molto debole in trasferta, per cui prevedo due belle scoppolette, una stasera e una domenica. Lo vediamo. Io invece penso che paradossalmente per la Roma la partita di questa sera sia più semplice di quella di Empoli. È chiaro che è una forzatura, però è anche evidente che la Roma è una squadra che ha bisogno di prato, ha bisogno di spazio, ha bisogno di campo per le sue verticalizzazioni. È una squadra che strutturalmente, come capita a qualche grande, a molte grandi, soffre contro chi si chiude. Non vedo una Roma che ha, con il complesso della trasferta. Secondo me è puramente una questione tecnica e tattica. In più la Roma questa sera, visti gli obiettivi, giocherà senza tantissima pressione addosso. Garcia ha ragione, è una partita che è molto più pesante per il Manchester City, che spende un sacco di soldi, che ha la Champions League da anni come obiettivo, mai centrato e spesso insomma maltrattato. Non dimentichiamo che il City in Champions League non ha mai fatto molta strada, è considerato quell'organico, è qualcosa di inspiegabile. Beh, morale per la Roma questa sera sarà una partita per divertirsi, guardando quello che succede, divertirsi ovviamente tra molte virgolette. La partita di domenica a Torino invece sarà un bel banco di prova, secondo me. Beh, facciamo anche Alessandro, provincia di Bergamo, dai, prima della borsa. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo dire un mio signore su Mazzarri, da juventino, lo so, da osservatore esterno, proprio partendo dalla sua dichiarazione. Quale? Per me proprio quale? Quella che avete fatto sentire alla radio di giustificazione sull'andamento della partita col Cagliari. C'è. Io da allenatore, da interista, un mio allenatore che fa una dichiarazione così, dovrei avere l'allenatore al top. E tutte queste cose fondamentali tu non hai tenuto conto, cioè mi sembra assurdo. Per me loro stanno rivivendo come quando la Juve ripartiva da Ranieri o ripartiva da allenatori che non sono vincenti. Se c'è in giro Mancini, per me farebbero bene a stoppare subito e partire subito da Mancini, secondo me. Beh, ma Alessandro, anche Conte non era vincente prima di arrivare alla Juventus, Io da che mondo, da quando seguo il calcio, se io guardo a fine carriera chi è stato un fuoriclasse da giocatore, guarda caso a 18-20 anni era già un fuoriclasse. Se guardo gli allenatori vincenti, guarda caso, quando li guardo i primi 3, 4, 5 anni di carriera avevano già vinto. Mazzarri ormai per me è della fascia sotto. Cioè per me una dichiarazione così da allenatore top è inammissibile. Cioè, il top, proprio perché su tutte quelle cose mi sbaglierò, No, ma per molte cose ha ragione. L'unica cosa è che anche Conte, quando è arrivato alla Juventus, non aveva la statura ancora dell'allenatore vincente, era semplicemente un allenatore che aveva un personaggio che aveva molto credito presso la tifoseria juventina. E ricordo che non tutti erano d'accordo gli juventini da un punto di vista tecnico anche nel praticare questa scelta. Molti avrebbero voluto invece un allenatore già collaudato, già vincente, esattamente come lei sta proponendo per l'Inter. Credo che insomma la storia tra l'Inter e Mancini, anche se sono cambiati gli interpreti, i personaggi, gli attori protagonisti, sia un po' difficile da rincollare. Credo anche che insomma Mazzarri, al di là di questa sconfitta, abbia la piena possibilità e probabilmente anche il pieno diritto di provare ad andare per questa strada. Sarebbe insomma una rivoluzione di fine settembre, penso sarebbe abbastanza deleteria per questo progetto, che è soltanto all'inizio, ma è soltanto una mia idea. Curioso di sentire la vostra ancora. 800 24 0024. Paese, sapessi quanta gente che c'è sta. Bravo! Ferrari. E poi dice: "Me voglio, manna a tutti a Frascati", capito? Sì. Ma Luigi Pardo. Ciao. Canta, ecco, con... sei pronta a cantare? Canta con me. Ti ricordi il coro dei tifosi? No, no, no. No, questa. Sono contento solo se sento Giancarlo Ferrero. Giancarlo Ferrero? Giancarlo Ferrero perché faceva più rima. Si chiama Massimo, lo so benissimo. No. Mi diverto solo se no, ma quella canzone lì mi diverto solo Piantanida, se... Tesciano, cercala, Tesciano mai mannata a quel paese. Alberto Sordi, una canzone straordinaria, no, veramente. Una canzone straordinaria. No, ascolta. Tesciano mai mannata a quel paese, intanto, sapessi quanta gente che c'è sta. È il primo cittadino, amico mio. Tu digli che te ci ho mannato io. E va. Però è difficile cantare con difficile, a cappella, è un'altra roba. Allora dai, sentiamo, sentiamo un altro pezzo di show ieri sera di Massimo Ferrera. Ciao Ilaria, un po' che una palla a matano, se ne ho messa. Ho voluto unire due forze che sono simili, cinema, calcio, cultura. E questo è il sale della vita, forza Sampdoria, ne la faccio più. Ma io non parlerei di ricordi, parlerei di attualità. Sì. I ricordi sono vecchi. Solo i vecchi ricordano. Ecco, quindi attualità? Attualità che è uno stadio, una tifoseria e gente che vedono solo il derby. Per cui sono molto felice avermi regalato e aver regalato a questa gente meravigliosa questo 1-0 che l'avevo detto, io ho detto a Preziosi 85 ti faccio un gol, portati in ambulanza perché ti sentirai male. Mentre sto andando sotto, questi meravigliosi, sensibili, tifosi sampdoriani mi chiamano sempre perché mi sono gentili, perché io sono un po' uno di loro, no? Che cosa accade? Che io non so certe regole, però non ho fatto niente di irregolare. Però era la partita del Genoa-Sampdoria, per cui in campo non ci potevo andare, perché il presidente Preziosi e il suo staff avevano proibito questa. Sono arrivato al cancello e non aprivano. Allora gli ho detto, a quello l'ho guardato, si è spaventato, gli ho detto apri questo cavolo di cancello. Sì, cavolo. Sbrigate! E lui ha preso, aperto tutto. Io sono cresciuto nel cabaret da ragazzino, per cui Kraus è bravissimo. Direttore. Lo sai perché ha detto, perché ha detto questa cosa da Sampdoria? Mi sono comprato l'attico da un centro di Sampdoria. Perché io quando è arrivato, dopo essere io dopo 15 giorni che non mi lavoravo tanto a parlare con l'Argentina per Bergessio, che c'era uno che era un disturbatore, mi chiamava sempre, ho detto lasciami perdere, non voglio più. Ho detto arriva un aereo da Catania a Sampdoria. E tutti i tweet e cose, ma dove è vicino sto Sampdoria? E allora nasce sto Sampdoria, poi mi sono comprato un attico al centro di Sampdoria. Posso che ricantare, sono contento solo se sento parlare Ferrero. Intanto diamo la notizia ufficiale che Cassano torna alla Sampdoria a gennaio. No, no. No, come no? Ma no, dai. Ma sì. Sono tutte cazzate. Ma sì. Perché no? Ah, dai. No, no, no. Ah, beh, pensavo se si lanciava il pezzettino. Come? Cioè, abbiamo il pezzettino di Ferrero sulla Samp? Ce l'abbiamo? Presidente Cassano tornerà alla Samp un giorno? Magari. Magari, Se lei è pronto a fare l'offerta, presidente, riportami alla Samp. A Parma sto bene, ma riportami alla Samp, per favore. È stato molto carino Cassano perché mi ha mandato un messaggino di tanti auguri. Cassano è il vero, uno dei pochi campioni indiscutibili italiani. Allora? Diamo l'annuncio ufficiale, cioè no, aspettiamo no, gennaio. No, fra l'altro no, fra l'altro poi c'è stato quel momento in cui Ferrero ha detto ha detto se solo avesse un pochino più di testa, e Giuliano Ferrara ha detto ma da quando in qua i calciatori devono avere testa. È stato un momento straordinario, guarda, veramente adesso se solo avessimo più di testa Cassano, vabbè, mi sono veramente discorso... divertito l'interazione Giuliano Ferrara Zeman Zeman Mughini, non so se ne avete già parlato. Calciopoli è tornata no, protagonista, no, ma anche no, dai. No, me lo guarda, proprio un argomento mi appassiona pochissimo. Detto questo, ci siamo veramente divertiti, ecco, sono proprio contento. Su Cassano non credo che ci possa, che tornerà la Sampa almeno a breve, anche perché sta molto bene a Parma, credo che l'abbia fatto vedere anche ieri. Però sì, ieri grande partita di Cassano, non che tanto ci possa essere Parma, guarda, che ci possa essere affinità e simpatia tra Ferrero e Cassano, questo conoscendoli, Cassano molto meglio di Ferrero, ma conoscendoli un po' tutti e due, questo ci potrebbe anche stare sicuramente. Rita, provincia di Roma, buongiorno. Senta, io volevo semplicemente dire che ieri sera mi sono fatta per la prima volta una di quelle risate che non sorridevo da 20 anni circa. Da 20 anni? Che tristezza, no, come mai? Grossi problemi. Allora faccio i complimenti a quel signore del Takatika, là come si chiama? Del? Tikitaka. Takatika, no, Takatika è corretto, corretto. Takatika. La scena di ieri sera è stata una cosa unica, unica. Vedere tra Zeman, tra Ferrero, il presentatore che poi è fortissimo, perché non dissente mai da Ferrero, neanche come lingua. Guardi, complimenti. E poi volevo fare una domanda. A quel signor, come si chiama? Parto? Sì, credo di sì, credo si chiami Pierluigi, sì, credo. Se non mi sbaglio, non ricordo male. Dica. No, ma lei mi è simpatico, quindi se anche non mi ricordo il nome non è un problema. Però mi deve dire la verità. Una cosa le voglio chiedere. Oggi come oggi, all'inizio del campionato, secondo Parto, Roma-Juventus, però una valutazione così spassionata, sì, per spassionata. Il gioco. Sì. Me la date? Sì, glielo do, innanzitutto grazie, grazie mille, perché... Ma no, guardi, è stato uno di quei, guardi, io non sono una figlia in Argentina, ho preso il pezzo e gliel'ho mandato, perché... Ma qual era la cosa bella? Ci seguo anche lunedì prossimo, Vabbè, allora che gli dobbiamo far di? No, beh, su Roma e Juve, beh, mi sembra che sono diverse. Sì, Juve... la diversità, forse. La diversità, secondo me, la Juve è più solida e la Roma è più estetica. La Juve è più solida. Secondo me sì, secondo me la Juve ha una solidità maggiore, ma insomma siamo all'inizio, stiamo parlando di due squadre praticamente perfette. Ma proprio per questo lo chiedo. No, infatti, ma io non ho la palla di vetro, la sensazione, il sospetto che la Roma si sia avvicinata ci può stare, anche se devo dire che la Juve è partita benissimo, cioè molto di della teoria che la Roma era più vicina o aveva superato la Juve si basava sul crollo della Juve, sul calo della Juve, no? Se ne parlava a metà luglio, dopo l'elaborazione del lutto per i tifosi della Juve della partenza di Conte. Mi pare che Allegri invece sia partito benissimo, quindi la Juve mi sembra in questo momento quasi più forte dell'anno scorso. La Roma è partita fortissimo, la Roma CSKA al netto delle difficoltà dei russi eccetera eccetera, è stata una partita abbastanza abbagliante dal punto di vista estetico, e io penso che fra stasera e domenica avremo le prime risposte. Poi chiaramente il campionato sarà lunghissimo, ci saranno i cali, ci saranno i momenti migliori, però io penso che già questi 5 giorni daranno un'indicazione psicologica importante. Mauro Rimini, buongiorno. Dica. Volevo porvi tre quesiti, per la verità. Allora, vado in fretta. Il primo, vorrei sapere una cosa da voi, cosa ne pensate? Allora, per quanto riguarda l'Inter, la colpa principale rimane la colpa di Moratti, perché Moratti, poveretto, ha fatto quello che ha potuto, ma non è che ci ha mai capito molto. Ha investito un sacco di soldi quando non doveva investirli, perché i campionati si realizzava l'era di Moratti è stata certamente coronata dalla Champions League, che è stato il trofeo più importante. Benissimo, vinto. Però okay. Una squadra come l'Inter non può pensare di vincere una Champions League ogni 30 anni. Una squadra come l'Inter, prima di tutto, non si può darla in mano all'indonesiano che ha i soldi per andare in spiaggia a vendere gli appendini. Sono andare in spiaggia avendo gli accendini mi sembra tanto e anche un po' offensivo. Arriviamo al punto, il problema qual è? L'indonesiano, Tohir, la presidenza, la proprietà, l'allenatore, qual è? Il problema è l'indonesiano, perché l'allenatore vale quello che vale, se non abbiamo i soldi per pagarlo, perciò è inutile, non possiamo prendere degli allenatori in gamba. Gli allenatori in gamba, quando vengono ad allenare una squadra, vogliono i giocatori, non vogliono quattro giocatori come abbiamo comprato noi a 2 milioni di euro soltanto di prestiti. Quelli, sì. Io non so mi come... sembra che gli altri, mi sembra che gli altri, anche quelli dall'altra parte del Naviglio, non stiano facendo investimenti clamorosi. Mi sembra che in questo momento solo Roma e Juventus stiano provando a tenere, tant'è vero che sono le uniche due in Champions League, a tenere un certo livello di investimento. Ma è vero che sei tu la sorpresa di Ferrero? Che? È un po' di giorni che Ferrero dice... Vi che porta... con la Nutella? No, quella della Sampdoria. Ah, ok. Non mi sento assolutamente di attribuire colpe a qualcuno del mio calo. È stato un calo... anche più mentale che tecnico. Sembra che non stia bene, non stia benissimo, insomma. Dispiace perché il Sharawi era in un ottimo momento, con la Lazio aveva fatto una grandissima partita, viene da un periodo di lunga inattività, si stava impegnando molto, mi dispiacerebbe perderlo. Ma io sicuramente ho tanta voglia di cominciare a giocare, devo solo continuare così. Il discorso di Stefano, in questi tre giorni di ritiro abbiamo provato per lui due soluzioni, sia come punta, che secondo me ha delle prospettive buone e interessanti, e sia da esterno di fascia, ci dobbiamo lavorare un po' di più. Adesso chiedo a Franco Ordine, nel giornale, nostro caro amico, di risolvermi il mistero, per me e per Pardo, se anche lui non conosce la risposta come credo, il mistero del faraone scomparso. Ciccio. Il problema vero è bisognerebbe interrogare l'interessato, perché soltanto lui riesce a darci una risposta. Allora, cerchiamo di riepilogare le puntate precedenti. Dunque lui parte alla grandissima, fa uno strepitoso precampionato, gioca la prima da applausi contro la Lazio. Va in nazionale. Ecco qua. Allora, primo punto, si produce durante la partita con la Lazio qualcosa alla caviglia, non dice niente per non perdere la nazionale e va in nazionale. Va in nazionale e lì non può giocare perché c'ha questo acciacco alla caviglia, perde un po' di allenamenti, perde un po' dello smalto che aveva conquistato e torna indietro. Quando torna indietro resta ancora fermo, quindi praticamente 3-4 settimane fermo prima di recuperare, e gioca contro la Juventus. Contro la Juventus dopo circa un'ora chiude con i crampi. Ora, nelle due partite successive non parte dall'inizio, in una doveva giocare addirittura a Empoli, sì. Ma lì purtroppo c'è un disguido, no scusa, doveva entrare a Cesena, ma lì c'è l'espulsione di Zapata e quindi che costringe Inzaghi a cambiare. Allora, sì. Conclusione, che cosa c'ha il Sharawi? Qui c'è un problema che riguarda prima la testa e poi le gambe di El Sharawi. Io non so che cosa abbia lui, se abbia davvero qualcosina che gli impedisce come dire, di ritornare il ragazzo che ci aveva fatto anche un po' sognare la prima stagione. Di certo in questo momento tocca solo ed esclusivamente a lui dare le risposte ai quesiti nostri, che sono tra l'altro tutti molto pertinenti. Certo. Pardo, sei soddisfatto della spiegazione di Ordine? Sono soddisfatto, stiamo parlando, innanzitutto lo saluto, stiamo parlando di un giocatore che praticamente non si vede da un anno e mezzo, e lo dico veramente in maniera molto, molto triste, perché quello che ha fatto il Sharawi all'inizio di quella stagione 2012-2013 è incredibile. Però il famoso 24 febbraio, l'ultimo gol nel derby contro l'Inter, e poi comincia la crisi, poi c'è un gol ad Eindhoven e poi una sequela incredibile di infortuni. Ci sono 200 e qualcosa minuti giocati nella scorsa stagione. Ribadisco che purtroppo, per fredda cronaca, considereremo fuori pericolo e fuori dal tunnel Sharawi quando avrà giocato due mesi in maniera... Ma è chiaro, l'abbiamo detto molte volte. Io a Franco Ordine voglio chiedere ancora questo. Allora, tu hai parlato di problemi fisici e di problemi mentali, psicologici, di questo tipo. Sì, sì. Quali sono quelli più seri? Guarda, quello più serio credo che sia quello di natura fisica, cioè questo è un ragazzo che vola, va a mille all'ora, e soltanto se vola e va a mille all'ora è in grado di esprimere tutte le qualità. Basta vedere la prima ora giocato contro la Lazio, devo dire, c'era da lustrarsi gli occhi. Poi c'è un aspetto di natura psicologica. Io ho l'impressione che questo ragazzo, tornato dalla Confederation Cup, quando tra l'altro, non so se ve lo ricordate, aveva di fatto rifiutato un trasferimento che avrebbe consentito al Milan di fare un'operazione da circa 40 milioni di euro, non due lire, lui si è un po' avvitato su se stesso. Secondo me deve tornare un po' il ragazzo semplice, spensierato, che era arrivato qui a Milanello ai primi anni e ai primi mesi. Mi sembra difficile tornare indietro, Franco, in tutta onestà. Quando sei arrivato lì mi sembra un po' difficile fare retromarcia e tornare ad essere il ragazzino di Savona che veniva da là e che ancora dimostrare. Però è chiaro che sarebbe il passo da fare. Perché poi e chiudo in 30 secondi. Se voi avete fatto riascoltare poco fa una dichiarazione di Conte, che secondo me è in assoluto la più interessante di tutte, cioè Conte dice che secondo il suo occhio, secondo il suo intuito, questo ragazzo ha anche la possibilità di modificare il suo ruolo da esterno in seconda punta. Naturalmente bisognerebbe lavorarci sopra. Certo. E non c'è cosa migliore per lui che continuare all'addestramento per avere anche due schieramenti. Due schieramenti, due soluzioni, due possibilità, due opzioni. Grazie Franco, grazie Ciccio Ordine, ci sentiamo. Grazie davvero. Parlo tu stai lì, abbiamo Bet Corner, GR, torniamo. Quote e pronostici. Torna a risuonare la musica della Champions League e questa sera c'è la Roma in campo, giallorossi che cercano nella trasferta di Manchester la seconda meraviglia europea dopo i 5 gol rifilati alla CSKA Mosca nella prima giornata. Vediamo dunque le quote SNAI per la partita tra Manchester City e Roma. L'1, la vittoria degli inglesi che sono favoriti per questo match, è quotata 1,67, l'X è a 4, il 2 invece con il successo dei giallorossi è quotato 4,75. Interessanti anche le quote del gol, quotato 1,63, e del no gol, quotato 2,15. Nello stesso girone della Roma c'è il match tra CSKA e Bayern Monaco, si gioca alle 18 a Mosca. L'1, la vittoria dei padroni di casa, è quotata a 9,50, l'X è a 5, il 2 invece con la vittoria dei bavaresi è quotata 1,32. Sfida molto importante poi quella tra Paris Saint Germain e Barcellona, si gioca senza l'ex più atteso Zlatan Ibrahimovic. L'1, la vittoria del Paris Saint Germain, è quotata a 3,70, l'X è a 3,40, il 2 invece è quotato 2. Questa era l'ultima delle quote SNAI di oggi, a risentirci domani. È un maestro di calcio, e mi dispiace che lui ce l'abbia contro la Juventus. È un maestro che io non avrei però augurato alla Juventus. Sentiamo perché sono nobili le sue vittorie, ma sono numerose le sue. Scusate, io di nuovo preciso da tempo. Dormiva io con la maglia. Scusate, prego. Io sono nato juventino perché sono nato nel 47 e mio zio nel 46 è stato acquistato da Juventus. Big Palek. Per tanti anni ho indossato la maglia della Juventus, ho dormito con la Juventus. Ragazzi, le posizioni... E poi Calciopoli non esiste e farmaci non esistono. No, i farmaci lì... esistono benissimo, Zeman, solo che se avessero andato a frugare negli armadietti di tutte le società italiane, trovavano farmaco più, farmaco meno, quella roba lì. Mi perdoni, Zeman. Ma quello mentre lei dice, io so che avevano trovato... Perché sono andati a frugare nell'affare della Juventus. No, io rimarrei molto volentieri, però mi annoia a sentire tutte queste cose. Non è che voglio fare quello che dice, però qui si parla sempre di cose di ieri e d'Armadietti, che non entro nel merito perché li conosco Armadietti. Scazzo di ieri sera, Mughini, Zeman con il cameo di Ferrero. Parlo stamattina sui social, che è successo? Ma no, è successo che qualcuno mi aveva fatto virgolettare una frase tipo Calciopoli è un punto di vista, cosa io non ho mai detto. Io ho detto semplicemente, per chiusare questa bella discussione, che i punti di vista erano chiari, mi sembrano molto differenti e molto chiari. E poi è evidente, insomma, sappiamo tutti com'è la storia, insomma, gli scudetti sono stati tolti alla Juve, ciò non toglie che in un talk show televisivo ci sia la possibilità di ascoltare i punti di vista diversi, di persone come Mughini e Zeman. E io credo che noi giornalisti l'unica cosa della quale dobbiamo preoccuparci è quando non rappresentiamo delle posizioni e ne rappresentiamo solo altre. C'è uno squilibrio in un talk show. Se ci sono quattro juventini che se la cantano e se la suonano, o quattro anti-juventini che se la cantano e se la suonano, questo è un problema. Ieri secondo me invece era proprio una situazione perfetta. Poi ognuno ha la sua opinione, ma insomma Zeman e Mughini, tra l'altro in punta di con grande eleganza tutti e due, nel senso che nessuno dei due ha sbraitato, ognuno dei due ha detto il punto di vista in maniera molto chiara e molto precisa, lo hanno espresso. Poi le persone da casa si fanno un'opinione. Questo secondo me è la... Però siccome poi sui social ogni tanto c'è qualcuno che si inventa le cose, aspettare il fatto che io avessi detto che Calciopoli è un punto di vista, no. Beh, ma comunque niente di nuovo sul fronte occidentale. Zeman si è, l'abbiamo detto molte volte, costruito questo personaggio pure un quarto d'ora di stress, capito? No, io dico la mattina c'ho sonno e quindi pure sto quarto d'ora che spiegato. Comunque devo dire poi molto, devo dire poi correttamente questo blog anti-juventino. Ma sì, ripeto, niente di nuovo sul fronte occidentale, cioè non mi sembra siano state espresse delle posizioni nuove e diverse, cioè semplicemente ognuno degli attori protagonisti è rimasto fedele a se stesso. Però il tema di ieri era un tema secondo me molto, molto sottile, perché quello che ha detto Zeman che abbiamo sentito è appunto, Zeman dice, Zeman due punti, io voglio bene alla Juve, avevo la maglia della Juve e detesto chi, secondo me, cioè secondo Zeman, non ha fatto il bene del calcio, non ha fatto il bene della Juve e si è comportato scorrettamente. Vabbè. Mughini chiaramente la pensa in maniera diversa. Ma diciamo, era una cosa sottile, secondo me, ed è stato un dibattito perfetto, secondo me anche abbastanza cult, perché se tu dovessi scegliere al mondo due persone per combattere questa, per sostenere queste due tesi, probabilmente sceglieresti Zeman e Mughini, o sceglieresti Moratti e Mughini, lasciando ovviamente, chiarendo preliminarmente che ci sono insomma, che non sono opinioni imparziali, chiarendo preliminarmente tutto questo, va da sé. Fatevi due risate, li vedete tutti seri. C'ha ragione in fondo anche lui. Fabio da Milano, grazie. No, posso dire una cosa in 10 secondi? Sì, scusa, poi Fabio, dimmi. Questa cosa fa parte del talk show, cioè io capisco che poi nessuno deve andare a studiare tecnica televisiva o di giornalismo. Un talk show è per sua stessa natura un insieme di punti di vista strasoggettivi, anzi, più sono forti i punti di vista, è come nelle interviste, più sono forti i punti di vista, più sono interessanti. Diverso è, per esempio, un telegiornale. In un telegiornale è ovvio che tu debba rappresentare, cercare un'obiettività che poi non esiste, ma cercare di rappresentare le cose nella loro complessità e nella loro verità. Ma in un talk show è ovvio che ognuno ha il suo punto di vista personale e rappresenta solo se stesso. Fabio, grazie. Ciao. Ciao, grazie per l'attesa. 800240024 allora, tu hai composto questo numero verde magico e sei aspettato per lungo tempo. Dimmi. Allora, riguardo all'Inter, io premetto che non sono un interista e sono contentissimo che ha perso, ma tutte le disgrazie dell'Inter, ha ragione quello che ha parlato prima, è Tohir, lui non è in spiaggia, è al bar. Cosa ha detto 2 mesi fa Tohir? L'Inter è nelle mani di Allah. E dove c'è questo qui? Ci sono sempre disgrazie. Ma capito? Fabio, però allora va bene tutto, l'Inter nelle mani di Allah, non ha detto questo, ha detto l'Inter l'ho presa perché era un desiderio divino, ma lasciamo stare i discorsi metafisici eccetera eccetera. Secondo me, se dobbiamo giudicare la presidenza Tohir rispetto alle premesse, rispetto a quanto detto, non era arrivato promettendo Pelé e Maradona, era arrivato dicendo altre cose. Secondo me l'Inter ha operato bene sul mercato e ha costruito una squadra progettuale e competitiva entro certi limiti, quindi non credo che a Tohir possa essere imputato il fatto di aver raccontato delle balle rispetto alla costruzione di questa squadra. A me l'Inter di Tohir per ora non dispiace, l'altro giorno ha perso in maniera incredibile una partita meritando di perderla, facendo schifo. Sì. Detto questo, fino a qualche giorno fa stavamo sottolineando la qualità di questa squadra, della campagna acquisti. Per me è una squadra molto più organizzata e logica rispetto al passato, e io penso che per ora Tohir abbia avuto un effetto positivo nell'Inter. Inevitabile, perché si è conclusa un'era che è stata un'era di trionfi, e non è facile elaborare, no, la perdita e il distacco da un presidente così straordinario per i tifosi dell'Inter come è stato Moratti, quindi è ovvio che non fosse facile dal punto di vista sentimentale per i tifosi dell'Inter, ma quest'anno si è voltato pagina, secondo me lo si è fatto bene e io sono molto curioso. Poi certo, non è che l'altro giorno non sia successo niente, no, l'Inter ha fatto schifo, ha preso 4 fischi in casa dal Cagliari e si è aperto un processo. Vediamo col Karabakh, certo, ma poi mettiamoci anche in mezzo comunque la partita di Europa League, che ripeto è un obiettivo che deve essere primario per l'Inter. La partita di Europa League l'Inter l'ha comunque vinta, quindi è chiaro che il bilancio non può essere positivo, però secondo me non è neanche da prendere per oro colato il solito bilancio, ok, 5 partite un anno fa l'Inter era più 5 eccetera eccetera eccetera, perché le premesse sono diverse. Quello che dico io è che Tohir è stato finora un presidente di parola per quanto riguarda la costruzione di questa squadra. Vogliamo dire a impatto zero, a mercato zero, con pochi soldi, vero, però con queste premesse non è stata costruita una squadra non competitiva, quantomeno per stare nel grande vuoto che c'è dietro Juventus e Roma. Piazza, che mi frega da Champions. Allora, come può vedere, pagina 33, dritto al volley. Come può vedere, se sì, questa grande, la del cuore, distorsione alla caviglia, può vedere. Già pronte per domani con l'Azerbaigian, disponibili per la seconda fase, non molliamo. Siamo la coppia più bella. E ci dispiace per gli altri. Voilà, pronto. Uè Roby! Oh, ma dove sei? Ma come, dove sono? Sono a Madrid, sono all'aeroporto di Barajas, mi sto annoiando. Ah, è vero, grandissimo. Adesso devo volare sull'aereo del Real Madrid, perché Carlo mi ha spedito a Razgrad domani a vedere la Champions. Ho capito che oggi non c'è il volley, che non ci sono i mondiali, ma che me frega di andare a vedere Ludogorets Real Madrid, che domani l'Italia inizia la seconda fase a Bari. Vabbè, ma dai, parliamone lo stesso. Sì, ma certo che ne parliamo lo stesso, caro il mio Carlo Genta. Io anche dall'aeroporto di Madrid ti parlo del mondiale di volley. Sai quanti eravamo, caro il mio Carlo Genta, domenica sera su Rai Sport 1 a vedere Italia Repubblica Dominicana? Eravamo in 830.000, c'eravamo io, Roberto Scaltritti, Claudia Schiattone, forse anche Pierluigi Pardo, che mentre commentava il derby di Genova, io lo so che nell'altro monitor si vedeva la palla a volo. Quindi devi stare calmo e tranquillo, perché adesso inizia la seconda fase, domani con l'Azerbaigian del bomber Polina Raimova. ma dobbiamo avere paura di una che si chiama Raimova. Io sinceramente non ce l'ho paura, quindi dai, domani sera altro che Real Madrid, Ludogorets, Razgrad, io a me non me ne frega niente, io sto là con gli auricolari e mi sento la partita di volley. Alla faccia tua, ma prima o poi io vengo in diretta, eh. Ah, ma prima o poi io ti prendo, ti leggo e ti porto a vedere le ragazze del volley che non mollano. Robby, scusa, ora vado, devo mollarti che mi sta partendo l'aereo, che devo andare sull'aereo del Real Madrid. Aspetta, ma qui c'è Ancelotti, resta in linea che chiedo un commento ad Ancelotti su... Ma no, non sul Real Madrid, mister, non mi interessa la partita, la Champions, Ronaldo. Ma lo sto seguendo il mondiale di volley, come si affronta? Lei come affronterebbe la partita con l'Azerbaigian di domani? Sono partite che è normale che ci sia molta pressione, ma siccome che ce n'è talmente tanta prima della partita, il giorno della partita, questi giorni è meglio stare tranquilli e sereni. Vabbè, che ci vuoi fare, Pardo? Sì, ma è così. Guarda, se c'era una possibilità che io seguissi il mondiale di volley, che sto scherzando, forza, dai, a Bari, ragazzi. Ma poi che bello, le ragazze del volley, questi sport sani dove non ci sono le polemiche. Che bello. Massimo, Genova, buongiorno. Massimo, buongiorno. Buongiorno a voi. Dov'è, in mezzo al mare? Dove stai, in mezzo al mare? Sto in mezzo al mare, però adesso vedo di andare. Genova dove? Genova, in mezzo al mare, non si Genova sente più. E allora Udine, dove andiamo, ieri hanno vinto Udine. Ancora il mare non c'è. Giovanni, buongiorno. Buongiorno. Grazie per la convocazione. Buongiorno. Volevo parlare dell'Udinese. Volentieri. Mezz'oretta di trasmissione, poi ho, per motivi di lavoro vi ho contattato un attimo fa. Tu Carlo hai detto che l'Udinese non arriverà e sono d'accordo, comunque adesso è una bella speranza per noi tifosi, per l'amor del cielo, però voglio fare una considerazione sull'allenatore, l'intelligenza di Stramassoni. Il primo gol dell'Udinese, se avete visto la partita per intero, è stato un errore di Badu. Era in aria, sì. Si è perso Cassano e arretrato Cassano e l'assist gli era dato. Il secondo tempo Stramazzoni si è messo Allan su Cassano e Cassano diciamo che non ha visto palla. Beh, ha visto palla magari no, diciamo che è stato in qualche modo limitato. È stato contrastato in maniera efficiente, diciamo. Sì. Efficiente, con questa intelligenza, con questa squadra qui, secondo me l'Udinese non deve essere tanto snobbata, perché pian piano stiamo costruendo un impianto, pian piano stiamo venendo fuori, pian piano, come la politica che dici tu Carlo, che l'Udinese è una politica che ti piace tanto in Serie A. Sì. Una piccola potrebbe dare fastidio, non lo so cosa ne pensate voi e dopo posso fare tra virgolette. Guarda, Giovanni, io credo che sia del tutto legittimo e anzi obbligatorio per i tifosi dell'Udinese, ma anche per quelli della Sampdoria, in questa fine settembre, in questa fine estate, sia obbligatorio cavalcare i sogni. La prende di testa Di Natale! Il pareggio dell'Udinese con Antonio Totò Di Natale, 1-1. Il cross passa, Terol velo, Di Natale! Nell'ultima azione del primo tempo segna ancora per la seconda volta Antonio Totò Di Natale, 2-1. Widmer, il cross per Ertò, un gol, che buon lavoro di Ertò, 3-2, di nuovo avanti l'Udinese con una giocata da fenomeno di Ertò. Terò in mezzo, c'è Muriel, Terò la piazza, Cyril Terò, 4-2, perfetto il 77. Vediamo se Massimo da Genova è riemerso dagli abissi. Massimo? Buon pomeriggio a tutti, grazie di avermi convocato. Sono appena riemerso dal da dove? Da sottomarino. Ah, da sottomarino. Ok. No, scherzo a parte. Ma io volevo solo portare un attimino una piccola considerazione su quello che è avvenuto ieri. L'effetto mediatico sicuramente del presidente e della Sampdoria è stato sicuramente importante per la trasmissione, ma non sicuramente per noi sampdoriani. Io voglio solo dire che ci ha molto imbarazzato il suo comportamento, il suo modo di fare. Non è tipico di un management della Sampdoria, che ha visto presidenti del carisma e della caratura di un Mantovani e di un Garrone, padre e figlio, trovarsi davanti un personaggio di questo genere, non genovese, che fa che si rende ridicolo, ridicolizza anche la sua posizione. E con una performance che definire grottesca e fare un favore a questo personaggio è una situazione, è stata veramente una cosa decisamente imbarazzante. Io volevo solo dire questo. Tra l'altro questi qui sono anche i commenti che circolavano stamattina per la città. Io sto sia al bar questa mattina facendo colazione, in ufficio, successivamente poi parlando con i miei clienti e fornitori. No, ma io posso capire. Il discorso è questo, e mi permetta, io sì. capisco perfettamente la posizione di Pardo dicendo che è stata una cosa perfetta, bellissima, non per noi genovesi. Ma quale? No, a che cosa ci riferiamo? No, io. A cosa ci riferiamo nello specifico? È evidente, no, ma ci riferiamo al fatto che ci sono una serie di posizioni del presidente Ferrero che una sono perfetto. Sopra le righe, scusate. E questo l'abbiamo capito. Così. Allora, o si decide che il presidente Ferrero non parla, oppure se parla sarebbe abbastanza ridicolo sentirlo parlare con l'aplomb, non so, di Garrone, tanto per fare un esempio. È chiaro che è una gestione diversa ed è chiaro che è un personaggio diverso, dove sicuramente magari qualcuno ci dice che ci si può perdere in termini di eleganza e di aplomb, magari ci si è chiaro che Ferrero non termini, è Mantovani per Luigi Pardo. Ci si guadagna in termini di battute, passione, drammatizzazione del calcio, e quindi io capisco il punto di vista del tifoso della Samp, ma qui non è anch'io che lo capisco. Non è che è tiki taka o non è alciato quando quel giorno si è fatto prendere il microfono da Ferrero che ha creato il personaggio Ferrero. Il personaggio Ferrero è questo. Fino a questo momento sta facendo bene dal punto di vista tecnico, ma si sa che il calcio è materia mutevole, gli auguriamo ovviamente di continuare così. Ieri secondo me si è raccontato nella maniera più sincera, più vera e più spontanea. Certo, è questo, non è Garrone, non è Mantovani. Vogliamo dire che è un personaggio anche caricaturale, che è un personaggio che fa ridere, che è divertente, eccetera. Se questo non ma che poi tra l'altro l'imitazione di Crozza, Pierluigi, quello che la mia idea è che è talmente sopra le righe Ferrero che qualsiasi tipo di imitazione è quasi una diminuzione, perché è talmente bravo lui nell'essere Ferrero. Che quasi quasi la darei su e fossi uno guarda, che gli fa un verso. A un certo punto, come sottolineava Franco Ordine, dopo che abbiamo visto l'imitazione di Crozza, c'era Ferrero che faceva l'imitazione di Crozza che imitava Ferrero. Sì, è chiaro. Io lo capisco benissimo che una persona abituata alla plomb, all'equilibrio, al garbo, anche all'eleganza di Garrone, Mantovani, eccetera, eccetera, possa sentirsi un po' destabilizzato, però poi alla fine quello che conta e per il quale dovranno soprattutto i tifosi, noi spettatori neutrali e i tifosi giudicare il presidente, sarà quello che farà, se farà il bene in campo o no della Sampdoria. Anche perché posso dire, poi io sento in giro continuamente dire quei vecchi presidenti di una volta non ci sono più, no, i vari Anconetani, Rozzi, e qui adesso c'è un personaggio che ha lo stesso tipo di atteggiamento, lo stesso tipo di passione, e sicuramente è in quel solco lì. Può piacere o può non piacere, però non cioè è questo. Allora o si decide che non deve parlare, e non sarò certo io a consigliare. O si decide che come fanno a Roma, che lo Tito non mi rappresenta, Ferrero non mi rappresenta, se sono sandoriano. Se parla così. E a me ieri mi ha fatto molto ridere, sinceramente, e l'ho trovato molto credibile. E fra l'altro, devo dire la verità, non metto in dubbio i feedback del tifoso stamattina, ma ieri mi sono arrivati su Twitter, a Tikitaka, a mio personale, una marea di tweet che ovviamente non sono exit poll alla Mannheimer, però erano molto benevoli. Cioè, secondo me lui ieri sera in televisione ha funzionato, e non ha funzionato soltanto dal punto di vista del programma, ha funzionato proprio lui, nel senso che secondo me tante persone si sono divertite, si sono fatte una risata, come no, poi ma poi è chiaro che c'è anche chi scrive peggio Ferrero il gesto dell'ombrello di Moratti, poi ci sono le espressioni di Gagliani, poi ci sono le esultanze della Valle, non dimentichiamo anche che il calcio è pancia, è passione ed è tifo, e quindi siamo dalla mattina alla sera a dire che è bello il calcio di una volta, e Costantino Rozzi, e Lugaresi, e Anconetani, poi arriva un presidente come una volta che fa queste cose e lo dobbiamo bastonare. Non lo so, ripeto, il dibattito è aperto e io non ho certezze. Non ne ho nemmeno io. Posso capire però che certi tifosi della Sampdoria, abituati ad un certo tipo di, lo capisco perfettamente, di comportamenti, dicano: vabbè, arriva questo, fa il matto tutte le partite, mi piacevano di più quelli prima. Detto questo, certamente il nostro calcio, molto spesso piatto, l'abbiamo detto molte volte, ha bisogno anche di personaggi di questo tipo, dunque noi lo accogliamo con favore, entro i certi e dovuti limiti, ma che mi sembra per ora non siano stati superati. Assolutamente. Anzi, posso anche svelare un ulteriore dettaglio. Credo che stamattina lui abbia fatto un giro di telefonate con gli ospiti della puntata di ieri. C'era Giuliano Ferrara, che insomma credo sia comunque da considerare uno degli intellettuali più acuti che abbiamo in Italia, comunque lo si pensi, che era incantato. Cioè, secondo me ieri è stata una mescola di alto e basso, di pop e di alto e di intellettuale, bellissima dal mio punto di vista. Poi, per carità, io sono l'oste, come il vino buono. Ieri secondo me il vino era particolarmente buono, per quello che è il mio gusto. Grazie Pier, ci sentiamo domani. Ciao Borsa. Amo la città di Sampdoria. Non è una città. Comprato casa proprio nel centro di Sampdoria. Ma no, la città dove parlano un po' così, minchi. Sappiamo che il favorito di questa gara è il Manchester City, ma il calcio è così bello che non è sempre il favorito che vince. L'ho detto dopo l'ultima partita di campionato, noi dobbiamo giocarla questa partita, essere protagonisti, e dopo ci saranno momenti difficili che dobbiamo saper passare e forse soffrire, ma faremo anche di tutto per dare problemi a questa squadra inglese. Con le forze in attacco e al centrocampo di questa squadra dovremo essere attenti in difesa e ben organizzato, ma ben organizzato per recuperare la palla e dopo per usarla bene, soprattutto questo, perché non possiamo soffrire 90 minuti senza perdere la partita, e dobbiamo essere protagonisti anche sul piano offensivo sicuramente. Questo Garcia alla vigilia della partita che stasera vedremo, e che insomma non vedo l'ora che inizi. Vi dico la verità, sono molto curioso di vedere la Roma sul campo del City, viste tutte le premesse che mi hanno elencato prima. Cioè, una grande partita europea certamente, una Roma che non ho dubbi sarà pronta a giocarla, un City che ha maggiore pressione sulle spalle, e questo mi sembra evidente, Totti che avrebbe una gran voglia di inchiostrare un gol in Inghilterra, cosa che non riesce a fare, tanto che è stato anche sbeffeggiato sui soliti social network. Speriamo, un sacco di premesse per vedere una grande gara. Franco da Roma, buongiorno. 800 24 00 24, numero verde. Sì, buongiorno, eccomi, grazie per essere stato convocato, complimenti per la commissione. Grazie. Un saluto affettuoso per Luigi Bardo. Dica. Volevo intervenire a proposito di Mazzarri e dell'Inter e di Stramaccioni, perché diciamo il confronto ieri è stato impietoso, insomma. Un allenatore che sembra sicuro di sé, è terzo in classifica, posto dove dovremmo stare noi, insomma, io sono interista chiaramente, e quindi ecco, volevo lanciare questa provocazione, se non era il caso di tenersi Stramaccioni, farlo crescere, come mi sembra cresciuto anche. Beh, però Franco, però allora Stramaccioni è stato mandato via dopo una serie di risultati deludenti, molti interisti erano grosso modo d'accordo in questa scelta, e allora ribalto il discorso: adesso non sarebbe il caso invece, proprio per evitare situazioni di questo tipo, di dare un po' di pazienza, di regalare un po' di pazienza a Mazzarri? No? Sì, quello sicuramente. A me personalmente Mazzarri non è mai piaciuto neanche ai tempi del Napoli, se devo essere sincero, perché con la squadra che aveva, diciamo, forse anche con il Napoli avrebbe potuto ottenere risultati migliori. Però io ho visto la reazione di Mazzarri durante la partita, cioè un allenatore che a San Siro gioca per non prendere il quinto gol, non ha giocato per non prendere il quinto gol, non ha giocato e basta l'Inter, cioè quello che è veramente inspiegabile, e dicevo prima, ne parlavamo con Nebuloni, no? Addirittura paradossale la dimensione di questa sconfitta e l'atteggiamento dell'Inter, tanto da far pensare che sia davvero l'infortunio come il portiere cui passa la palla sotto le gambe questa partita, ovviamente il tutto amplificato, però la sensazione è questa, cioè non può essere così l'Inter, non può finire sfracellarsi sugli scogli di una partita in questo modo, un progetto che sembra sensato, sembra serio, sembra positivo, quindi boh, vediamo la prossima, no? C'è l'Europa League, ripeto, dietro l'angolo giovedì ed è estremamente importante, e poi c'è una partita come quella con la Fiorentina che insomma qualche verità la dirà, io credo. Davide, provincia di Pavia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Non sono assolutamente d'accordo con niente di quello che è stato detto appena adesso da lei. Benissimo. Perché primo, Mazzarri ha stufato e gode di un credito assurdo, perché si parte da quello che è un concetto un po' sbagliato circa i fischi dell'anno scorso all'ultima di campionato, perché si pensa che siano fischi dovuti al non utilizzo del capitano per il saluto praticamente, e invece quello è solo stato che ha fatto traboccare il vaso. La gente ne aveva le scatole piene, perché la stessa partita che abbiamo visto con il Cagliari è stato il derby dell'anno scorso, una squadra che non entra in campo, non gioca, perde la partita. Le partite si possono perdere, perché nel calcio nessuno vince sulla carta, ma si devono giocare. Non abbiamo giocato quella con il Milan, non abbiamo giocato quella con il Cagliari, e le figure si stanno amplificando sempre di più. Mazzarri non va bene, non è l'allenatore che va bene per l'Inter. Qual è l'allenatore che va bene per l'Inter in questo momento? In questo momento, secondo me, l'allenatore giusto era Mihajlovic, è rimasto libero, non l'abbiamo preso. Mihajlovic allena la Sampdoria, quindi servirebbe eventualmente un'altra scelta. Prendiamo allora Walter Zenga piuttosto, un interista che ami l'Inter. Non sono d'accordo su questo, non sono mai d'accordo su questo punto. Zenga da allenatore, che cosa ha fatto al di là dell'amare l'Inter e dell'essere interista? Davide, raccogliamo ovviamente la sua opinione, la giriamo a tutti quanti e raccontiamo la storia di un altro allenatore invece. Caccia la vita e anche più giù, ma farò finta che è tutto ok. Fa tutto bene, fa tutto da solo col mancino. Pagignac è sempre al posto giusto, sempre di testa. 2-0. Io provo ad andare dentro, cerca il drop col sinistro. Ruffi, la chiama fuori. Palla dentro, Imbula, palla sul mancino. Imbula! Chanel Imbula! Secondo gol consecutivo. E questo è fantastico. E questo sblocca il risultato. E questo fa 1-0. E questo fa impazzire il vero drop. Uyu ruba palla, Clerc palla dentro per Payet, può caricare, va col destro, Payet 2-0 al 28esimo, ancora Dimitri Payet, terzo gol per lui in questo campionato. L'OM scatenato. Scusa se poco, e non pensare che ciò che fai sia esclusivamente. Mio amico Filippo Maria Ricci, che la settimana scorsa abbiamo troncato sul più bello quando aveva una voglia matta di raccontare una storia, che è quella di El Loco Marcelo Bielsa. Ciao Filippo. Buon pomeriggio. Allora, adesso la raccontiamo. Può essere in mezzo a queste polemiche che attanagliano Mazzarri, che strangolano Mazzarri, può essere anche pertinente, no? Si può trovare qualche punto di contatto. Ma sì, anche perché il Loco è stato molto vicino all'Inter, però per onestà, per integrità intellettuale, disse no a Moratti, perché era già in parola col presidente dell'Atletico Bilbao, presidente non ancora eletto, ancora prima delle elezioni, però lui disse no, io ti aspetto, se tu vinci le elezioni ti ho dato la parola, vengo da te. E Moratti rimase così, con un palmo di mano. Questo è Bielsa, però è bielsismo al 100%. Lui aveva dato la sua parola, me lo ricordo perché andai lì alla presentazione e lui innanzitutto mi inseguì, dice: mi raccomando, tu sei della Gazzetta, lo devi dire, che io non è che non voglio l'Inter, così, però insomma la parola è la parola. Dico, c'hai ragione Marcelo, peccato un po' così, perché mi aveva fatto piacere vederlo in panchina in Italia, però è stato a Bilbao, è andata abbastanza bene in Coppa in maniera spettacolare, in campionato meno 12esimo e 13esimo, e Valverde ha fatto molto meglio di lui, è arrivato quarto. Poi adesso va al Marsiglia, inizia con delle polemiche incredibili, c'è una foto che gira in cui lui sta facendo uno di questi suoi sproloqui e c'è la l'ha detto stampa una ragazza con le mani nei capelli. Sì. Perché sì. Fa la sponda a zero, non mi ricordo se sul presidente o cose così. Perché Bjors è così. Però ha cominciato un pareggio, una sconfitta. E poi eccoci qua, 6 vittorie consecutive. Due gol incassati, perché poi anche questo mito che no, un po' la cosa zemaniana che si attacca e si finisce sempre 5-4 non è vero, in realtà appunto l'ultima 6 partite ha preso 2 gol e poi vabbè, c'è tutto come si può dire la parafernalia, tutto quello che lo accompagna, il corollario di lui che sta seduto sulla la cassa delle bibite, lui che si fa il caffè, c'è questa foto meravigliosa, lui che gira il cucchiaino mentre i compagni, i suoi giocatori stanno festeggiando un gol. C'è lì col caffè in mano, c'è di tutto, c'è le diciamo, qualità intellettuali, qualità diciamo, scenografiche e poi qualità che Bielsa ha sempre avuto peraltro, esatto, non sono una novità assoluta. Ma no, Filippo. No. Beh, che sia loco è vero, cioè la parola loco, il pazzo nel senso comunque lui chiede quell'intensità, quella voglia è spettacolare, è un personaggio di diciamo di una, a livello intellettuale superiore alla media del calcio, per cui gli piace parlare. Queste conferenze stampa fatte a occhi bassi, queste risposte lunghissime, insomma è un'altra storia rispetto a quello a cui siamo abituati. Sì. Però va bene, divertente. Io non conosco così bene il campionato francese. Il Marsiglia l'anno scorso non era andato benissimo, non sapevo quanto ci si poteva puntare, e poi vediamo, perché magari si sgonfia. Piacere che per il momento sia le cose vadano così bene. Sì. Una squadra alla fine modesta, insomma, sì. Perché qui sì, il meglio che passa al convento è Gignac. Sì, no, ma poi è anche molto duttile nei moduli, molto. Sì. Insomma, è un allenatore di grande intelligenza, Marcelone Bielsa. Sì. Siamo tutti contenti di questo suo exploit al Marsiglia. Allora, Filippo Maria Ricci per la Gazzetta dello Sport e per noi dalla Spagna, adesso mi dici come sta messo l'Atletico il giorno prima di una partita che per la Juventus è di grandissima importanza, perché continua a ripetere il fatto che sarà la prima vera unità di misura della Juventus di Allegri, che fino a qui è stata perfetta. Sì, però è una partita forse ancora più importante per l'Atletico, che magari non ha bisogno di non ha bisogno di test per misurarsi, però ha perso ad Atene e quindi deve assolutamente, se non vincere, almeno far punti. E ci arrivano bene, perché hanno un trittico diciamo tremendo, dovevano giocare col Siviglia, hanno vinto 4-0, sabato vanno a Valencia, erano le due squadre che erano in testa col Barcellona, e in mezzo c'è la Juve, e il ritorno del Ciola ha cambiato molte cose. 6 partite senza il guru in panchina sono state lunghe, pesanti per l'Atletico. È tornato con le sue braccia alzate per arringare il pubblico e la sua pressione sui giocatori. Ha scelto il portiere, giocherà Moyà. La vittoria sul Siviglia è stata spettacolare. Una squadra, il miglior Atletico della stagione, ancora meglio secondo me che nei derby col Madrid. C'è un dubbio: Gabi, il capitano, non sta bene, oggi non si è allenato, quindi se non gioca lui bisogna scegliere un partner per Thiago, il reietto della Juventus, no, uno che a Torino non ha fatto niente, invece qua fa molto bene come tanti altri, e quindi bisogna trovare, e questo condiziona un po' anche la presenza o meno in panchina di Alessio Cerci, perché o in tribuna, perché cioè balla, esatto. Mi pare che balli tra la panchina e la tribuna, esatto, no? Tra il 18 e la tribuna sta. E se non c'è Gabi dovrebbe va in panchina. Non benissimo Cerci, che dura, non benissimo. Cioè, poveretto, questo qua, voglio dire, qua siamo al massimo livello. Questi sono i campioni di Spagna e vice campioni d'Europa. Ho capito, ma Cerci è anche un giocatore nazionale italiana, uno che ai mondiali invocavamo come titolare, è stato uno dei migliori giocatori del campionato italiano l'anno scorso, no Filippo? Quindi non è l'ultima pipa arrivata. No, però quello qui è diverso, cioè questo ti dà anche la misura, cioè in campionato italiano fa 20 con Luca Toni, voglio dire, cioè, non è che con tutto rispetto ovviamente, qua è un'altra storia, qua siamo veramente al top. Il ragazzo Alessio è uno che ha debuttato con 16 anni e mezzo con Capello, quindi non con l'ultimo, no, sì, cretini, con la Roma, e ci ha messo 11 anni a arrivare in una squadra top, qualcosa vorrà pur dire. Adesso secondo me lui va bene, si sta impegnando, ha capito, sa che questa è l'ultima occasione. Il problema è che è duro, perché comunque la la competizione è tosta, anche se in realtà adesso qualche buchetto c'è, perché non ha, Simone non ha ancora trovato la quadratura del cerchio, quindi è un peccato che lui per problemi fisici, cioè ancora si vede che è, poi uno grosso, ha queste cosce enormi, fa un po' fatica a entrare nel ritmo. Però io ti dico, ci credono tanto su di lui, l'hanno pagato parecchio, e io continuo a pensare che ce la possa fare, e lo spero, perché per noi. Ma io invece ho sempre avuto diversi dubbi e me li tengo tutti per il momento. Se tu lo conosci anche meglio, io non lo conosco tanto. No, ma per carattere, non come giocatore. Io non ho mai, esatto, io non lo so, qua è dura, comunque si viene a misurare con il massimo che c'è, voglio dire, sì, magari Real Madrid è ancora più complicato, se vuoi, o il Barcellona. A proposito, come sta Carletto? Carletto è meglio, Carletto è un fenomeno. Carletto ha riuscito di nuovo a trovare una mezza, dico mezza, la quadratura del cerchio. Ha smontato la squadra e Carletto ha trovato queste due sistemazioni. La rettangolatura del cerchio, non la quadratura, esatto, la rettangolatura. Esatto. Dopo che ovviamente questo rettangolo verrà preso a picconate dal grande Florentino. Però è riuscito. Insomma, vediamo domani a Sofia. Secondo me è ancora una partita molto abbordabile. Dovrebbe tale il potenziale offensivo che dovrebbe fare. In generale si vede che ha trovato con o con l'inserimento di Chiaramendi al posto di Benzema, quindi una squadra più coperta, oppure con tutto il cucuzzaro, proprio tutto il salvadanaio di stelle tutte sul campo, per il momento riesce a, in attesa ovviamente di impegni più seri. Intanto è andata bene un pochino a Villarreal, ma io lo vedo, è un fenomeno. Intanto comunica agli astanti che restano a casa indisponibili Barzagli, Romulo, Marrone e Pirlo, che era dato per rientrante almeno in panchina. Da quelle parti invece no, Barzagli, Romulo, Pirlo e Marrone non viaggiano verso Madrid. No. Qua la lista la dà domani il Ciolo, perché appunto vuole sciogliere, cioè c'è questo dubbio di Gabi, e quindi questo condiziona. È una partita per me, spero, bella e comunque molto, cioè, importantissima. Guarda, simile a City Roma di stasera. No, il City deve vincere e l'Atletico deve vincere. Poi da italiani speriamo che non ce la facciano e che quindi così. E per noi, per Roma e Juve, sono finalmente un test importante, e vediamo a che punto siamo, vediamo dove stiamo. Grazie Phil, grazie, sentite i prossimi giorni. Mauro Udine, buongiorno, poi chiudiamo. Mauro, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo intervenire sul tema allenatori. Sentivo prima che parlavate di Stramaccioni, che Stramaccioni non sia all'Inter, non ha fatto fortuna, eccetera. Ma facciamo un'analisi precisa. Mettiamo i vari signori Allegri, Conte, Garcia ad allenare l'Udinese, vediamo cosa fanno. Cioè, voglio dire che l'allenatore, è facile per un allenatore allenare una grande squadra, anzi vediamo la Juve in panchina ha un'altra formazione top, no? E io volevo fondamentalmente sottolineare che ci vuole serietà da parte dei giocatori strapagati. A Udine di Natale insegna un giocatore che ha rinunciato alle grosse squadre e ha mantenuto l'Udinese dal 2004. Perché? Perché lì si può lavorare ed è facile lavorare per un giovane allenatore come Stramaccioni, come Guidolin a suo tempo, e mi pare che fino a questi ultimi anni il capocannoniere ha viaggiato a doppia cifra e gli allenatori che sono arrivati a Udine hanno dimostrato, vedi Guidolin, di andare o in preliminare di Champions o di Europa League. Quindi andiamo a sottolineare che sono gli allenatori che secondo me non valgono, i vari Mazzarri, per dire. Ma non è così, diciamo invece che possiamo guardarla dall'altra parte, e cioè Udine magari è l'ambiente ideale per valorizzare le qualità di un allenatore. Non la possiamo guardare sotto questa angolazione, perché comunque l'Udinese rimane un'eccellente squadra, ma è un'eccellente squadra da anni e non è un caso che sia un'eccellente squadra. Dunque credo che sia un posto meraviglioso per un allenatore che vuole dimostrare le sue qualità, soprattutto per un allenatore giovane come Stramaccioni, andare ad allenare in un club come l'Udinese. Quindi non starei tanto a dire sono gli altri che sono scarsi. Mazzarri, Stramaccioni è certamente un allenatore di talento, è un allenatore che ha delle idee, è un allenatore che all'Inter in una situazione molto difficile, comunque aveva provato a fare delle cose, è arrivato ad Udine e le prime 5 partite gli stanno dando clamorosamente ragione. Ma in tutto questo non ci trovo niente di particolarmente strano, Mauro. Ci vediamo qui, ragazzi, torniamo domani alle 2, tutti convocati. Franco Piantrini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, Claudia Schiattoni in redazione. Ciao. Io so le cose, le faccio, volo basso e schivo al sasso. Che diavolo ci fate in casa mia? È una violazione di domicilio, Giuna, ma per una questione di grande importanza, niente meno che per Savant. Questa è un'occasione che capita solo una volta nella vita, Giuna. Perdete tempo, perché io non gioco più. Perché? Se è lecito. Ho perso il mio swing. Allora ritrovalo. Per la miseria! Perché tu giocherai, non c'è altro da dire. Savanna ha bisogno di te, Giuna. Non ha bisogno di te. Ci serve un condottiero. Tu sei il nostro paladino di nobile lignaggio. È un gran bel discorso, signori miei. Non accetterò risposte negative. No. Le dovrete accettare, perché io non gioco. E adesso fuori. Tutti convocati.